Hanno inaugurato lo spazio porto, la folla col fiato corto si incolla all'asfalto come un gatto morto. Guardavi solo shuttle lucido di smalto bianco col naso puntato in alto accanto alla rampa di lancio. Arriva il sindaco nel cielo indaco del crepuscolo rosso di Lambrusco, parla e non si becca un fischio. Tutti applaudono quando notano che è pronto il varo con una bottiglia gran cuve e lo rampervie. Ma vi si aggrappa come un koala, tipi snob che avrei affogato come cioccolato nel Marsala. Autorità di Lions e Rotary prendono posto nel Discovery, ma è pagato dallo Stato quel pieno, questo io sceno, non Madame Bovary. Sulla terra guerra tra poveri, non c'è posto se ti ricoveri. 3, 2, 1, contatto, parte lo shuttle con tanto d'autografi. 3, 2, 1 con lo shuttle stiamo mandando. Meglio così, staremo più larghi. Extraterrestri e in arrivo. Voi siete artisti, fate i cerchi di grano. Voi. Cacca nello spazio, cacca nello spazio. C'è un uomo di mezza età con la sua metà che ne ha meno della sua metà. Un amore acerbo, colto certo, nella disco a Porto Cervo. Il prelato ha pronto il verbo del creato e molto esperto. Dall'abitacolo caccia il diavolo, ma ne maneggia lo sterco. Il giovane cantante rap è già nella fase REM. Sogna lo star system, video space per la top ten. Il businessman punta su Giove per le fabbriche nuove. Vuole fare pieno di lavoro alieno da pagare meno che altrove. Il generale non ha più il fisico, è bianco e tisico. Avrebbe goduto più col futurisico. Uomini di stampo politico poggiano in oro culi regi sulle poltrone con i fregi, soliti loro privilegi. Dalla sulla terra pare una boccia del peso di un'oncia, ricoperta d'acqua ma dalla doccia non cade una goccia. C'è chi si piglia tutto lo spazio e chi lo piglia in saccoccia, in piedi come pendolari sui treni Bari Foggia. Però sono contento perché con uno shuttle stiamo guardando. Ciao Caparezza, sono Ilaria. Non ci crederai, ma ti sto chiamando dallo spazio. Ho saputo che lavori al circo. Niente, volevo sapere come va. Ciao.